24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Paola Nania e bentrovati all'appuntamento con 24 ore in Europa. Oggi parleremo ancora di immigrazione, dello scontro tra il governo italiano che chiede di allargare a tutta l'area Schengen il permesso temporaneo concesso da Roma ai migranti del Nord Africa e l'Unione Europea che per ora non ha intenzione di accettare la linea italiana. Spazio anche ai giovani e alla disoccupazione, se ne è parlato ieri a Bruxelles in un convegno organizzato dalla rete Euronet. Parleremo ancora dell'andamento delle borse e del Salone Internazionale del Mobile che si è aperto ieri a Milano. E come dicevamo, è sempre l'immigrazione e la diversità di vedute tra governo italiano ed Unione Europea nella gestione del flusso partito dal Nord Africa ad aprire il nostro 24 ore in Europa. Il punto nel servizio. La delusione resta, ma il governo prova comunque a smorzare le polemiche dopo il no dell'Europa alle richieste italiane in tema di immigrazione. Quello di Maroni, che ieri si era domandato se ha ancora senso per noi restare nell'Unione Europea, è stato solo uno sfogo, spiega oggi il ministro degli esteri Frattini. Ha espresso la sua forte delusione in un momento di ira e di rabbia che possiamo comprendere, ma bisogna avere nervi saldi. Quindi avanti nell'Europa, ma facendo valere un ruolo europeo che purtroppo non c'è stato in questa vicenda. Sulla stessa linea è anche il leader della Lega Bossi, secondo il quale comunque gli immigrati devono tornarsene a casa. Maroni, dal canto suo, oggi corregge in parte il tiro, pur confermando le sue critiche. Credo che questa visione miope, finora proposta e tenuta da alcuni paesi europei, secondo cui si tratta solo di una questione italiana, questa visione è frutto di una concezione sbagliata del ruolo che l'Europa deve avere in questo contesto e su questo argomento. L'isolamento dell'Italia in Europa preoccupa intanto le opposizioni, che chiedono al governo di chiarire in Parlamento quale sia la sua linea in politica estera. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il presidente dell'Unione Europea Van Rompuy e il premier greco Papandreou concordano sul fatto che sul fronte immigrazione le misure dell'Unione non sono sufficienti. Lo afferma lo stesso Van Rompuy in una nota diffusa a Bruxelles al termine della sua visita ad Atene. Con l'Italia si schiera anche il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, che giudica positivamente la decisione di dare un permesso temporaneo a quanti sono arrivati nella penisola dall'Africa del Nord. Per Hammarberg anche le critiche avanzate dalle autorità italiane nei confronti dell'Europa per mancanza di solidarietà reale sono fondate. Di immigrazione ha parlato anche il segretario di Stato Vaticano, cardinale Tarcisio Bertone, usando parole critiche nei confronti dell'Unione Europea. Non c'è dubbio, ha detto Bertone, che l'Europa abbia profondamente deluso di fronte all'emergenza immigrazione. Credo che i primi delusi sarebbero i padri fondatori, ha aggiunto, perché l'Europa ha perso il suo spirito profondo di grande solidarietà. A Bruxelles intanto si è parlato di occupazione e disoccupazione giovanile. L'occasione è il dibattito organizzato dalla rete di radio europee Euronet. Hello and very welcome. Giovani europei e disoccupazione, dalla generazione perduta alla generazione speranza. È stato questo il leitmotiv del dibattito ieri a Bruxelles tra gli studenti universitari e i rappresentanti delle istituzioni comunitarie. Un evento organizzato dalla rete di radio europee Euronet che ha lanciato per l'occasione il nuovo portale Connect. La crisi economica ha portato tassi di disoccupazione record tra i giovani in Europa, la media è del 20%, con Spagna, Grecia, Irlanda e i paesi baltici tra i più colpiti, tutti oltre il 30%. Come conseguenza diretta si diffondono contratti temporanei, l'abuso degli stage e una mobilità verso l'estero spesso obbligata. Molti giovani, non solo italiani ma anche spagnoli e irlandesi, devono abbandonare il proprio paese per cercare in Europa migliori opportunità. Il commissario all'occupazione Laszlo Andor ha messo sul piatto l'idea di un single open-ended contract che porti da una situazione di flessibilità contrattuale a una finale con tutte le garanzie del caso mediante l'introduzione di coperture graduali nell'arco della carriera. L'obiettivo è colmare il gap generazionale che ha sfavorito causa crisi proprio i più giovani. This is a generational question very much, and that's a Radio 24 il commissario Andor ha commentato la situazione italiana dove quasi un giovane su tre è disoccupato. È una questione generazionale, dobbiamo guardare al sistema educativo e ai servizi per l'impiego. È importante pure che le autorità italiane migliorino le performance del fondo sociale europeo. europeo, dice, e aggiunge: l'idea di un contratto open-ended si applicherebbe molto bene all'Italia, non a caso l'idea è vostra, il mercato occupazionale italiano è troppo segmentato, avverte Andor. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. È iniziato ieri a Milano e andrà avanti fino al 17 aprile il Salone del Mobile, appuntamento internazionale che apre l'Italia a tutta Europa. Fabio Pisano. C'è atmosfera di festa quest'oggi qui in fiera per l'apertura del Salone Internazionale del Mobile, un'atmosfera di festa giustificata anche dal fatto che il Salone spegne quest'anno le 50 candeline, una cifra tonda che insomma non fa che confermare l'importanza dell'evento che per una settimana mette Milano al centro dell'Europa e del mondo anziché delle polemiche, anche se abbiamo già sentito assieme le parole di Emma Marcegaglia che era presente all'inaugurazione insieme al sindaco Fitizia Moratti. Ma noi siamo qua insomma per parlare di arredi, design, innovazione, gusto, creatività, sono queste le parole chiave di una kermesse che attirerà nel polo di Ropero, secondo quanto previsto dagli organizzatori, almeno 300.000 persone in una settimana tra addetti ai lavori, stampa e pubblico, pubblico che avrà accesso solo dalla giornata di domenica ed è previsto un bagno di folla. L'importanza del salone, quasi 2.800 gli espositori per una superficie che supera i 210.000 metri quadrati, naturalmente però anche economica per un settore che sembra confermare dei progressi, in particolare per quel che riguarda l'esportazione, guarda con curiosità, si attende insomma segnali analoghi anche dalla domanda interna. Per ora è tutto, vedremo come si evolve naturalmente questa lunga settimana del salone. Cambiamo argomento, ritrovate le scatole nere dell'Airbus dell'Air France precipitato nell'Atlantico con 228 persone a bordo nel maggio del 2009. Lo ha annunciato ieri a San Paolo il presidente dell'Associazione delle Famiglie delle Vittime. Ora la pagina economica. A 28 anni dal suo ultimo intervento in Portogallo, il Fondo Monetario Internazionale è sbarcato di nuovo ieri a Lisbona per una prima missione di valutazione congiunta con l'Unione Europea del futuro piano di salvataggio da circa 80 miliardi di euro chiesto dal governo del premier dimissionario Socrates. La trattativa politica è prevista invece per la settimana prossima. Ora, come di consueto, il punto sull'andamento delle borse. Il balzo oltre le attese dei prezzi americani, che avvicina il rialzo dei tassi della Federal Reserve, trascina al ribasso le borse europee. A Milano il FTSE MIB e l'All-Share perdono l'1,5%, giù anche Parigi, meno 1,5%, Francoforte, meno 1,4% e Londra, meno 1,4%. Pesante battuta d'arresto per i chip a livello europeo. Non sorprende dunque che ST sia la peggiore di Piazza Affari, con un ribasso del 3,85%. Il gruppo italo-francese, dopo i massimi toccati a inizio aprile, attorno a quota 9 euro, ha perso oltre l'8%. Di diverso tenore la performance del Monte dei Paschi di Siena, più 1,8%, su cui si sono finalmente allentate le tensioni dopo l'annuncio dell'aumento di capitale da massimi 2,4 miliardi e la pubblicazione del nuovo piano industriale. Ceo Condina da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. Euro-dollaro sopra quota 1,45 per la prima volta dal gennaio 2010. Il biglietto verde ha perso ulteriori posizioni nei confronti della moneta unica dopo la pubblicazione dei deludenti dati sulla bilancia commerciale statunitense. La decisione di economia e finanza italiana, DEF, con le nuove previsioni macroeconomiche sarà presentato oggi durante il Consiglio dei Ministri. Il ministro italiano Tremonti porterà sul tavolo della riunione del Consiglio anche lo schema del Piano Nazionale di Riforme, PNR, previsto dalle nuove regole europee e da trasmettere a Bruxelles entro aprile. Ora il calcio. Il Paris Saint-Germain, la storica squadra di calcio della Ligue 1 francese, è in vendita. Lo rivela il quotidiano Le Parisien, sottolineando che Colony Capital, il fondo di investimento statunitense proprietario del 95,8% della squadra parigina, ha deciso di accelerare il processo di cessione del club. Per questo, prosegue il quotidiano, è stato incaricato un organismo specializzato in questo tipo di transazioni. Il Paris Saint-Germain vale oggi tra i 50 e 60 milioni di euro. Secondo il Parisien ce ne vogliono altrettanti per rilanciarne e farne una squadra capace di qualificarsi regolarmente per la Champions League. E a proposito di Champions League, stasera sfida Germania-Italia con l'Inter che a Gelsenkirchen cerca la rimonta impossibile contro lo Schalke 04 che nell'andata dei quarti di finale a San Siro si è imposto per 5-2. Il capitano dell'Inter, Javier Zanetti. Sì, siamo consapevoli che è una cosa molto difficile. Però abbiamo all'inizio 90 minuti a disposizione per poter fare questa grande impresa, questo grande risultato. Ci dobbiamo credere, credo che per l'esperienza che ho, in 90 minuti possono succedere tante cose. Una partita di calcio può cambiare da un momento all'altro. E noi speriamo di fare una grande partita. Io credo che soltanto così potremo sperare a questa impresa. E prima di chiudere vi ricordiamo gli appuntamenti del giorno. Eurostat presenta i dati della produzione industriale di febbraio ed è prevista la riunione collegiale della Commissione europea. Il commissario all'energia Gunther Oettinger e il presidente delle regioni Mercedes Bresso presentano invece i premi per la settimana europea dell'energia rinnovabile. Si chiude qui il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un saluto da Paola Nania. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.